Stai ascoltando Fuori o Mario, cose mai sentite. La cosa più orribile che abbia visto in vita mia. Dimmi un po', ragazzolo, tu conosci un certo Mario che abita qua intorno? Qui da Mario ce ne so 100. Oh, sì, va bene, ma questo è uno che ruba. Sempre 100. Non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se ne hanno la voglia di darmi pieni poteri. Ed egli vide che ciò era buono. È arrivato il momento di buffare. Odio la mia vita! Imbecille! Accogliere chi scappa dalla guerra, sì. Subito, domani mattina. Anche a casa. Lavora a casa del signore, giovedì, signore, il giorno dopo. Giovedì, sì, signore. Sì, ma perché sarà venerdì, due giorni, due volte alla settimana. Sì, signore, infatti, in questo momento dovresti essere a casa mia a lavorare. A casa mia, signore. Tu a casa mia a lavorare. A lavorare a casa mia, signore. Sì, io vengo a casa tua a lavorare. Sì, se può venire, può venire, signore. A mia moglie è contenta perché guarda la televisione e fa manda becetta a bisicola. A te, signora. Chi sono io? Non mi faccia arrabbiare, dichiara il suo stato. Lei è una mer... Lei è una mer... Una merdaccia! Detto questo, l'obiettivo è di sgomberarli, li campirò tutti dal primo giorno. Ma appunto, che li ha sgomberati, dove li mette? Chi ha diritto fa come tutti gli altri italiani. Chi non ha diritto, visto che è gente che i quattrini ce li ha, tanti saluti. Nel campo non ci stai. Se vuoi, se ti compri una casa, fai la domanda per la casa popolare, se ne hai diritto. Voglio andare a casa. La casa dov'è? La casa dove posso stare in pace, io voglio andare a casa. È stato un incidente, sono state zingari. Sono stati zingari. Gli zingari sono famosi per l'abilità di trattare gli affari. Probabilmente è per questo che parlano come parlano. Buon cane, buona famiglia. Aia, cosa fare se un cane ti attacca? Caro Matteo. Sì, signor Conte. Promuovendo questa crisi di governo, ti sei assunto una grande responsabilità di fronte al paese. Questa volta lo devo dire. Devo fare nomi e cognomi. Da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo stanno ripetendo dalla scorsa notte per tutte queste ore. Non è assolutamente così. Questo governo non lavora col favore delle tenebre. Che rumorina, che cosa sarà? Oh mamma, che paura! Paura, paura! Io voglio andare fuori, non restare più qua, tra queste quattro mura. Che mura. Questo castello è molto strano, orrido e scomodo, lo sai, è proprio antidiluviano. Meglio non abitarci mai, mai, mai. Vedessi il proprietario, poi che strano tipo è. Siamo in Africa e lui è Abdul. Tra qualche anno verrà in Italia e ruberà il vostro lavoro o quello di vostro figlio. O perché no, tutti e due, eh? Una delle tante soluzioni attuabili si chiama aiutiamoli a casa loro. Ma questo non si può fare. Certo che si può. Nella casa delle libertà. Facciamo un po' come cazzo ci pare. Questa è una balla inventata dai vostri giornali. Perciò aiutiamoli, sì. Aiutiamoli a casa loro. Ma da parte sua, lei sente che Berlusconi preferisce l'altro Matteo nel suo cuore? Don Matteo! Chi sei? Sto cazzo. E vogliono fare un dispetto a Salvini. Come ti chiami? Ma mi vergogno a dire il mio nome. E perché? Perché mia madre, con tutti quei bei nomi romani che c'aveva a disposizione, Tito, Silla, Cesare, Funari, Brutelli, Vespasiano, sapete come mi ha chiamato? Come? Annibale. Magara. Mi ha chiamato Silvio! No! Sì, Silvio mi ha chiamato! Addio, Gober Berlusca! Signora's dance has no title, you jump in the saddle, hula hoop.